Non so se capita anche a voi di vedere qualche talk show di argomenti politici. A me succede, e di solito sono attento alle parole, ai temi e alle costruzioni argomentative dei partecipanti. Da qualche tempo l'argomento della coerenza è ritornato in auge, probabilmente perché dichiararsi coerenti o l'accusare altri di incoerenza non costano assolutamente nulla in termini di impegno verso i cittadini. Uno accusa, l'altro si vanta e intanto si trasformano le trasmissioni di informazione diretta in semplici occasioni per fare il tifo per il partito del cuore. Se affrontiamo l'argomento in termini più seri, dovremmo in primo luogo convenire che la coerenza non può esistere senza un correlato e che una volta definito il correlato ci si trova in una sorta di prigione in cui l'unica via d'uscita sembra essere un cambio di opinione che spezzi il continuum dell'esistenza vissuta ed espressa fino a quel momento. Il problema è che il cambio di opinione non spezza affatto il continuum dell'esistenza, anzi, ne è la logica prosecuzione. Un pensiero si concepisce, si affina e si modifica man mano che l'esperienza ne mette in luce gli aspetti incongruenti. Intanto dà luogo delle conseguenze che, viste dall'esterno, possono dare l'impressione di una cesura tra il pensiero stesso e il comportamento. Il punto debole di questa impressione sta nella convinzione di aver identificato il pensiero indicandolo tout court con quanto espresso in precedenza, o peggio ancora, con quanto di questo si è riusciti a capire. Per tornare ai nostri politici televisivi, vi dirò che non penso affatto che siano incoerenti o che cambino idea così rapidamente, e per di più in assenza di esperienze concrete. Mi paiono anzi perfettamente in linea con gli obiettivi che si propongono, proprio come il Cesare Borgia nella descrizione che ne dà il Machiavelli. Chi ne avesse voglia può per questo rileggere il paragrafo 7 del settimo capitolo del Principe ed immaginarsi quante dichiarazioni verbali e scritte possa aver fatto il Borgia per riconciliarsi con gli Orsini e convincerli al fatale convegno di Senigallia. Probabilmente, durante quella fase di riconciliazione col nemico storico, qualcuno che accusava in cuor suo il Borgia di incoerenza c'era già.